pensiero, ed un pensiero, nostra patria e mondo intero, nostra legge e la libertà, ed un pensiero, vive le dolci stelle, nostra patria e mondo intero, nostra legge e la libertà, ed un pensiero. La droga è morta.